Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 7. Pedine. Con il tempo che divora ogni cosa e il passare dei giorni, la Resi tornò a essere frequentata come al solito. C'era chi aveva fatto parte dello sciame e chi era solo stato spettatore di quella giornata di follia. Nessuno aveva parlato molto del concerto e di quel che era successo in seguito. Dopo l'iniziale perplessità era stato accettato e digerito per quel che era, un evento inspiegabile in un mondo di assurdità. L'eterno presente e l'eterno futuro dell'adolescenza tornarono per riempire i loro giorni. La necessità di restare uniti e condividere quei momenti di fragile tranquillità, sedersi lì e non allontanarsi troppo. Se il concerto aveva lasciato un'eredità, era solo nella lieve diminuzione del sottofondo di disperazione che usualmente era loro compagna di strada. Un sottile velo magico era stato deposto sopra l'apparenza delle cose. Qualcosa aveva posto un limite al pozzo senza fondo delle loro insicurezze. Certo, non si poteva parlare di felicità o fiducia nel futuro per la No Future Generation, però la disperazione che ti taglia dentro e che ti rende cinico e malvagio, quella si era rintanata da qualche parte nell'oscurità. Un presagio di apocalisse li attraversava inconsapevoli. Un mondo sotterraneo premeva per emergere sotto i loro piedi e a loro la sensazione non dispiaceva affatto. Nel mondo reale, invece, il commissario non si dava pace. La magistratura aveva aperto un'inchiesta. I ragazzi della collina erano stati interrogati, uno a uno. Anche i giornalisti avevano ficcanasato a lungo. L'unico elemento che avevano trovato in comune tra i catatonici era l'essere stati a un concerto quella sera, appena prima dell'esplosione di follia. Furono eseguiti sopralluoghi, analisi chimiche per determinare se fossero state vaporizzate sostanze tossiche che avevano provocato quell'effetto di allucinazione collettiva. Le testimonianze erano pressoché identiche. Eravamo al concerto, poi all'improvviso abbiamo avuto un'esperienza mistica, abbiamo visto Dio, bla bla bla bla, e ora siamo qui che aspettiamo il suo ritorno. Niente di concreto a cui appigliarsi, solo un episodio inspiegabile che avrebbe riempito le pagine dei giornali per pochi giorni. I pensieri del commissario non gli davano tregua. Alzò la cornetta e, consultando lo schermo del computer, compose un numero. Salve, sono il commissario. Parlo con... Drago non lo fece finire. Da giorni aspettava quel momento. Salve, commissario. Sì, sono Ozelot. Mi dica pure. Ci sono degli aspetti dell'indagine relativa a quel che è successo dopo il concerto che vorrei approfondire con lei. Non era proprio un ordine, ma il tono non ammetteva repliche. Ah, oh, quella strana storia, eh? Sa che non me lo spiego, ma sarò felice di aiutarla per quel che posso. Bene, può allora passare appena possibile in questura, magari oggi stesso. Sembrava una domanda, ma Drago capì che non era tale. Commissario, verrei volentieri anche ora, ma vede, mi sono fratturato una gamba un paio di giorni fa e sono appena rientrato dall'ospedale con l'obbligo di restare a letto una settimana. Era sicuro che l'altro avrebbe abboccato. Il tono da cucciolo ferito era stato convincente. Capisco. Ci fu una pausa e un frusciare di fogli. Se non le dispiace, posso passare io. Sarà una semplice chiacchierata. Non c'è problema, così mi preparerà lei un caffè, visto che io continuo a sbattere il gesso su tutti gli spigoli. Il commissario sembrò divertito. Lo farò volentieri per due, sarò a breve da lei. Il meticoloso si era aspettato una telefonata simile, fin dal giorno dopo il concerto. Ovvio che qualcuno, prima o poi, avrebbe collegato il loro spettacolo all'inconsueta migrazione. Tuttavia, mediante la strategia del ragno, predisponendo la tela e anticipando le circostanze in modo da ottenere il massimo del risultato con il minimo sforzo, aveva trasformato il problema in opportunità Tra non molto quella pedina gli sarebbe servita. Il citofono del suo appartamento suonò circa un'ora dopo. Drago premette il tasto di apertura del cancello. Udì il portone aprirsi e il commissario entrare in casa. «Venga su, commissario, qui di sopra, in camera!» urlò a pieni polmoni. «Mi scusi se non le vengo incontro!» Per un istante il commissario restò perplesso. L'esperienza gli aveva cucito addosso una corazza di sospetti. La villa dove stava entrando era deserta. Davanti a sé un appartamento silenzioso e una scalinata che portava al piano superiore. Diede una lieve spinta al portone di legno dietro di sé, che si richiuse con più forza di quella che ci aveva messo. La mano destra si sollevò e toccò il gelo del metallo nella fondina. Alla sua destra una stanza, con un antico pianoforte nero e un telefono che doveva essere stato suo contemporaneo. Pura, pesante bachelite nera, il design pomposo ma ingenuo dei primi oggetti tecnologici. Quel posto aveva l'odore che hanno i posti disabitati da decenni. I mobili antichi giacevano sotto una coltre di lanugine grigia. Gli specchi alle pareti sembravano essere stati lucidati con il latte. Iniziò a salire le scale, allerta come un bracco in una fredda alba di caccia. Drago era seduto in camera sua, gli occhi fissi sulla porta, il pollice sul telecomando del Devil. Ascoltava il rumore dei passi che salivano le scale. L'ombra del commissario riempì il rettangolo di luce davanti alla porta. «Entri pure, commissario!» stabilì un contatto visivo con gli occhi della vittima e azionò il Devil. Il commissario non ebbe neanche il tempo di realizzare che non c'era nessun gesso, nessuna gamba rotta. Si impietrì come una statua di sale. Drago continuava a guardarlo nelle pupille. Poi iniziò a parlare. Un'altra pedina era pronta. «Dobbiamo andare a Roma», aveva detto la cornetta del telefono. «Perché dobbiamo?» Mirko si riparava gli occhi con la mano libera. Lame di sole filtravano dalle tapparelle abbassate. Per un attimo ebbe l'impressione che fossero le dita di Drago venute a tormentarlo. «Devo parlare con un paio di persone», gracchiò la cornetta. La sveglia segnava in verde le odiose 7:07. Senza dubbio era mattina. «Ma non puoi andare da solo?» Silenzio. Poi... «Che ti prende? Ti caghi sotto?» Silenzio. Poi un sospiro. Poi... «Dimmi cosa hai in mente?» «Preparati che partiamo. Sono qui sotto.» Mirko non si prese neanche il disturbo di protestare. Era ora di alzarsi. Lasciò cadere a terra la cornetta del telefono. Si trascinò fuori dal letto, infilò jeans e camicia bianca, afferrò gli occhiali scuri, guardò in frigo senza trovare niente degno di essere ingurgitato senza danni, ficcò i piedi nelle scarpe da ginnastica, si aggiustò i capelli, cercando di sembrare umano almeno nello specchio, e scese le scale per raggiungere l'amico. La Golf nera era lì fuori, anonima e innocua. Si infilò dentro sbadigliando. Drago tirò fuori dalla tasca il Devil, lo collegò con un cavetto al cellulare. Con questo non finì la frase, ma il suo ghigno lo fece per lui. «Ho un paio di idee, voglio divertirmi strada facendo.» «Andando a Roma?» Drago scosse la testa e rise. «Ti andrebbe di suonare davanti a un fottuto milione di persone?» Mirko si passò una mano tra i capelli. «Ok, certo. Tutto qui?» I suoi occhi presero a osservare qualcosa che vedeva solo lui.